si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno, buona domenica cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, saremo insieme sino alle 11, il buongiorno di Radio 24 nel weekend. Si può fare, i nostri contatti, se volete interagire in tempo reale con noi ci trovate su Twitter, siamo già tutti svegli a quest'ora, naturalmente chiocciola si può fare 24, il mio account personale invece chiocciola Ale Maurizi. Più avanti ci sentiremo anche sul numero verde, aspettiamo i vostri interventi. Adesso cominciamo a dare un'occhiata sulle prime pagine dei giornali di oggi, ma iniziamo con una buona notizia. And now, the good news! Vabbè, così, giusto per tirarsi su un po' il morale, speriamo. Un patto antifurbetti per snidare gli studenti finti poveri. Lo hanno siglato la Regione Lazio, l'Università La Sapienza, Tor Vergata, Roma 3 e la Guardia di Finanza della Capitale. Voi direte, ma queste cose bisognerebbe farle sempre, ma siccome non si fanno praticamente mai, allora benvengano queste iniziative. Nel mirino le autocertificazioni rese dagli studenti per avere, come sapete, le sovvenzioni, le borse di studio, le esenzioni universitari, gli alloggi, insomma un po' tutto, i buoni pasti, le agevolazioni nei trasporti, ma questo riguarda anche le dichiarazioni dei redditi in generale. Lo sapete, è stato varato il nuovo ISEE proprio per evitare che questo accada. Insomma, c'è un patto a Roma, Guardia di Finanza, Università, per evitare che questo accada. Chi sarà pizzicato dovrà restituire il mal tolto e in alcuni casi anche incorrere nelle sanzioni che sono previste. Benissimo. Quindi, cari furbetti delle tasse universitarie, state attenti, almeno a Roma, perché in arrivo per voi ci sono tempi più difficili. Prime pagine dei giornali, dicevamo. Iniziamo con il Corriere della Sera, tutti praticamente i giornali si occupano, vabbè, della prima della Scala con la Traviata, ci sono foto, notizie, racconti ovunque, ma chi se ne frega, si può dire chi se ne frega, no, vabbè, no, con tutto il rispetto per gli amanti dell'opera non lo diciamo, però insomma, non si sa perché ogni anno questa cosa è che ritorna. Invece ci sono le primarie del Partito Democratico, oggi lo sapete, quindi i titoli sono su questo, ma soprattutto sul dato dell'affluenza, perché tutti dicono più o meno che se non andranno a votare almeno 2 milioni di persone non sarà un risultato accettabile per il Partito Democratico. PD, la vera prova è l'affluenza, scrive infatti il Corriere della Sera. Oggi le primarie sfida 3, Renzi prepara un'agenda d'attacco. Poi c'è anche il sottotitolo su Napolitano, tra i timori per l'asse Forza Italia Grillo e l'auspicio di un patto premier sindacato, sindaco, fu un patto tra il premier Letta e il sindaco Renzi. Dicevamo della prima della Scala, una Traviata contestata ma Violetta conquista tutti, scene moderne sul palco, carote e pasta, fischi alla regia, dissensi sul direttore. Però Napolitano, non so se avete sentito nei giornali radio, ha detto che sono stato un cast d'eccezione, quindi se lo dice Napolitano, che è un amante dell'opera, dobbiamo crederci. Sulla prima pagina del Corriere però un'altra notizia che ve la vogliamo dare subito, è una mini inchiesta del Corriere. Ieri abbiamo parlato a proposito dei conti che ci sono in Vaticano, dell'inchiesta del Fatto Quotidiano che dice ci sono passaggi di denaro non giustificati all'Agenzia delle Entrate tra lo IOR e l'Italia. Ebbene, sentite qua cosa dice il Corriere. 1200 conti da chiudere dello IOR, le lettere che il Corriere pubblica nel loro formato prestampato della Banca Vaticana ai correntisti e le resistenze che ci sono. Nelle lettere sono indicate 3 date, quella di invio il 19 settembre, poi il 4 luglio quando il Consiglio di Sovrintendenza dell'Istituto lo IOR ha stabilito di limitare i rapporti di conto alle istituzioni cattoliche, ecclesiastici, dipendenti, ex dipendenti del Vaticano, titolari di conti per stipendi e pensioni, nonché diplomatici accreditati presso la Santa Sede, solo loro, non tutti quegli altri che usavano il Vaticano come un paradiso fiscale. Ultima data riportata in queste lettere è quella di chiusura dei conti, che doveva avvenire il 30 novembre del 2013. Andiamo a leggere brevemente perché è interessante. All'interno del Corriere, lettere di chiusura a 1200 correntisti della Banca Vaticana. La lista di 1200 conti però è al centro di molte preoccupazioni sia in Italia sia in Vaticano. Le preoccupazioni sono legate all'identità dei detentori di questi conti, perché se alcuni nomi sono persone del tutto ordinarie straordinarie, come la segretaria di un vecchio cardinale oppure il nipote di Papa Pacelli, altri invece sarebbero importanti personalità italiane. Ma in Italia, dalla Banca d'Italia all'Agenzia delle Entrate, si è preoccupati anche per le procedure di chiusura che sono state o saranno seguite. Quanti soldi di questi 300 milioni di euro, che sono stati censiti ma sono probabilmente molti di più, torneranno in Italia? Perché dovete sapere che con l'ultimo scudo fiscale dal Vaticano all'Italia è rientrato 1 milione di euro, cioè 1 su 300. Quindi insomma, chissà, le aspettative ci sono che si chiuda questo contenzioso fiscale tra l'Italia e il Vaticano, contenzioso fiscale, che venga chiusa questa farsa del paradiso fiscale a Roma, però staremo a vedere. Andiamo sempre parlando di primarie su Repubblica. Primarie PD, la sfida è sull'affluenza. Renzi, Cuperlo o Civati, oggi il vincitore. E leggiamo all'interno qualche notizia. Allora, innanzitutto ricordiamo così il numero dei partecipanti alle scorse primarie, perché alle precedenti, a tutte le precedenti, c'è stato un calo progressivo dell'affluenza. Dall'entusiasmo, diciamo così, del 2005, quando si votò però per la premiership, c'erano Prodi, Bertinotti, Di Pietro, 4 milioni e 300 mila persone. Poi siamo scesi quando si votò per la segreteria del PD e venne eletto Veltroni a 3 milioni e mezzo. Stesso andazzo, un calo nel 2009 quando si votò per la segreteria Bersani, 3 milioni e 1. Poi si è tornati a votare per la premiership l'anno scorso e i votanti furono sempre 3 milioni e 1. E al ballottaggio 2 milioni e 8 quando poi venne votato Bersani. Adesso si è detto almeno 2 milioni, ma insomma, stando a queste cifre dovrebbero essere molti di più perché sia un successo. Come si vota? Bisogna andare sul sito partitodemocratico.it per individuare il proprio seggio, dalle 8 alle 20, con carta d'identità e certificato elettorale. E poi c'è la notizia di Francesco Guccini che dice: Prodi mi ha convinto, io vado, fermiamo il suicidio. Credo che la gente debba partecipare, decidere, anche se è piena di dubbi, si trova di fronte a un sacco di cose che non condivide, se non si continua a provare non si cambia mai nulla. E con Raffaella, nota mia, la compagna di Guccini, ci siamo detti che anche 2 voti possono contare, anzi la moglie di Guccini, perché si sono sposati. Poi l'intervistatore gli ricorda: ma lei insomma era infuriato perché per come hanno trattato Prodi, eccetera eccetera, perché è tornata a votare? Dice: no, non rimpiango nulla, continuo a stimare Bersani, sono sempre furioso per Prodi massacrato in casa, ho visto un PD a pezzi, non mi ha convinto Epifani alla segreteria, figurati l'incrocio con il PDL, e va a votare per il PD. Dice Guccini: non ne posso più di suicidi rituali, vedo il paese che soffre, credo che la sofferenza di oggi possa insegnare qualcosa alla sinistra, non si vive di sole tattiche. E poi gli ricordano: ma sua figlia non vota, il suo amico Ligabue nemmeno, il suo fan Samuele Bersani ha scelto Grillo, i giovani non votano perché, risposta di Guccini, non trovano la spinta per interessarsi alla politica, bisogna saper reinventare l'entusiasmo. Allora bisognerebbe, dice lui, non dice per chi voterà Guccini, bisognerebbe però capire chi dei tre, fra Cuperlo, Civati e Renzi, secondo Guccini è in grado di ridare questo entusiasmo. Allora si potrebbe risalire a chi voterà Francesco Guccini, cantautore storico, forse anche guru della sinistra, ma forse non solo, perché ai suoi concerti non ci vanno solo quelli di sinistra, dell'Italia intera. Dalla prima pagina di Repubblica leggiamo questa inchiesta un po' domenicale: attenti, ogni giorno internet può rubarvi 2 ore di vita, è il risultato di una ricerca del National Bureau of Economic Research, secondo la quale sempre più spesso la gente, soprattutto dopo cena, una volta sistemata la tavola e messi i piatti a lavare, si dedica al computer, a Facebook, a scambiare battute su Twitter, a aggiornare i propri status, a sommergere gli amici di foto su Instagram, studiare le prossime vacanze su Google. Finirete per fare anche più tardi che andando al cinema, in pizzeria o a ballare. E vabbè, questo si era detto anche per la televisione, succede adesso per internet. Che c'è di strano se uno guarda internet? Niente, si va meno al cinema, forse, può darsi, si guarda meno televisione, magari, perché ne abbiamo vista tanta. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore l'intervista al presidente della Bundesbank, James Weidmann, spero si pronunci così: anche la Germania deve fare le riforme, dice il presidente della Bundesbank. Poi, vabbè, l'Italia ha le capacità di uscire dalla crisi da sola, e l'editoriale del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, che dice, a proposito di Germania e Italia, il loro è nostro interesse. Ancora, prima di dare la linea al traffico, altre letture, diciamo, di questa giornata di primarie, così dando un'occhiata veloce sui titoli dei giornali. C'è chi, come il Giornale della famiglia Berlusconi, dice: va in scena la farsa PD per eleggere il leader, ma Renzi ha già vinto, perché riferimento al fatto che i sondaggi danno in testa Renzi. E in effetti queste erano un po' le premesse di queste primarie, perché Cupolo è stato, si può dire, no? Candidato proprio per opporre qualcuno a Renzi, altrimenti sarebbe stata una corsa solitaria. Pittella inesistente, Civati ha raccolto poco fin qua, però chissà poi quando si andrà a votare davvero, oggi e stasera sapremo il risultato, se invece non ci sarà qualche, non dico sorpresa, ma insomma possibile che Civati prenda più voti del previsto, Renzi ne prenda meno, e questo potrebbe essere già un risultato, ma sicuramente sarà, come dice il Giornale, Renzi il leader. Buongiorno Democratico, alla prima pagina dell'Unità. Quella del Fatto Quotidiano invece: Renzi si sente già padrone, PD, ma quanti voteranno? E abbiamo già detto che la soglia individuata un po' da tutti è 2 milioni di elettori. Traffico, torniamo tra un attimo. In un minuto per salvare l'Italia, almeno dargli una mano. Tre quarti del patrimonio pubblico da vendersi, le concessioni demaniali, sia marittime che forestali, lacustri, eccetera, già in concessione a un privato. Proporgli l'acquisto direttamente e quindi la vendita, che garantisce un introito sicuro e in brevissimo tempo, tetto massimo per qualsiasi persona che ha a che fare con la politica italiana, che sia un riguardoso nei confronti di una persona normale che percepisce uno stipendio da cittadino normale, se necessario una piccola patrimoniale su i beni abitativi. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, ben ritrovati. Ancora una segnalazione ve la vogliamo dare dalla prima pagina della Stampa. Ecco la lista dei 175 ospedali che dovranno chiudere. Già, manca solo il sì di regioni e governo per far scattare la chiusura di 175 ospedali con meno di 120 posti letto, considerati inefficienti e fonte di sprechi. I medici chiedono che sia mantenuta un presidio nelle zone disagiate, però insomma tant'è, si va verso la chiusura, se tutto procede come sembra, di appunto 175 ospedali con meno di 120 posti letto. E in effetti, insomma, farsi curare per delle cose serie in un ospedale con meno di 120 posti, dove la casistica è bassa, sfido chiunque a volerlo fare. Nella classifica, diciamo, delle regioni dove ci sarà la maggior chiusura, il maggior numero di ospedali chiusi, la Sicilia con 37, la Lombardia con 31, poi Campania 19, Lazio 16. Le regioni tra virgolette più virtuose, dove non ci sono ospedali così piccoli, sono la Liguria 1 da chiudere, le Marche 2, la Friuli Venezia Giulia sempre 1, l'Emilia Romagna 3 ospedali piccoli da chiudere, 4 per il Veneto e per il Piemonte. Questo, se vi interessa, c'è proprio la lista con i nomi sulla Stampa di oggi. Ma restiamo in edicola e andiamo ad approfondire, come ogni giorno a quest'ora, le anticipazioni succulente dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale. Ritroviamo Armando Massarenti, che ne è responsabile, curatore e direttore. Buongiorno Armando. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno e buona domenica. Ancora buona una domenica. Volta in trasferta, Armando. Naturalmente sono tanti gli approfondimenti di questo vero e proprio giornale nel giornale della domenica. Da cosa vuoi cominciare oggi per ingolosirci? Ma partiamo dalla copertina, siccome fra due giorni, il 10 dicembre, saranno esattamente 500 anni della lettera che Niccolò Machiavelli scrisse all'amico Francesco Vettori, in cui parla del principe per la prima volta, e uscirà proprio in questi giorni una nuova edizione molto curata, molto ben curata, proprio da un nostro collaboratore, Gabriele Pullà, che tutti i nostri lettori conoscono, anche il curatore della parte di letteratura, insieme ad un altro nostro collaboratore Luzzatto per Einaudi, e qui ci propone un articolo in cui spiega le modalità con cui ha operato per questa bellissima edizione Donzelli. Lo stesso editore, peraltro, Carmine Donzelli, ha curato una specie di traduzione, diciamo così, una resa in italiano moderno del Principe di Machiavelli. Quindi abbiamo il testo di Machiavelli, il testo di Carmine Donzelli, un ricchissimo apparato di note di Gabriele Pedullà, che ci spiega però anche qui i suoi criteri. Il criterio è quello di liberare in qualche modo il Principe da tutte le letture, le incrostazioni, perché proprio grazie alla sua enorme fama e al suo enorme successo nel corso dei secoli è stato un po' tirato da tutte le parti, insomma anche dal punto di vista ideologico. Dice Pedullà: non c'è niente di male a farlo diventare lo strumento di politici, di studiosi, da Gramsci a Lenin, fino addirittura a Craxi, quello che bisogna fare oggi, ci propone Pedullà, è avere un principe che sia adeguato alla lettura dei nostri tempi, cioè levare tutte le incrostazioni precedenti, leggerlo come un testo, un classico, che privo di queste sedimentazioni può finalmente, insomma, dirci delle cose a noi contemporanee. Quindi un principe per il XXI secolo è il titolo che abbiamo dato. Insomma, Armando, del resto uno, forse non so, il più grande pensatore, almeno per quanto riguarda la filosofia politica, è davvero imperdibile oggi il Domenicale con questa copertina importantissima per questo anniversario. So che parlate anche di Mandela, però, o volevi ancora dirci qualcosa? Parliamo anche di Mandela, ma guarda, io ti dirò che questo vorrei collegare idealmente a un piccolo articolo che ho scritto io in copertina, sì, che riguarda sempre i nostri stati generali della cultura, il nostro manifesto per la cultura, perché martedì in Senato ci sarà un incontro molto importante con la presenza del Presidente della Repubblica, che durante il quale verrà presentata proprio un'idea su cui noi abbiamo insistito molto in quest'ultimo anno e mezzo, che, diciamo, riassumiamola con il motto di Luigi Einaudi: conoscere per deliberare. Noi abbiamo sempre proposto l'idea che la conoscenza, la cultura dovessero andare, ritornare al centro dell'azione politica. E allora io qui nel mio un piccolo articolo che faccio in prima pagina, presentando questo incontro che avrà come protagonisti numerosi scienziati, studiosi che parleranno, l'incontro organizzato dalla Commissione Sanità del Senato, e parleranno proprio del rapporto tra scienza e politica, cioè politica e cultura, per fare che cosa? Anche per, e questa è la mia modestissima proposta, magari pensare, ripensare le istituzioni. In questi giorni si parla molto del Senato che va riformato, del bicameralismo perfetto che va riformato. Qui io propongo che il Senato possa essere trasformato proprio in una sorta di Camera Alta, come accade in Inghilterra, la House of Lords, che è appunto la Camera, diciamo, che produce documenti conoscitivi, che fa verifiche dei fatti e che quindi permette al legislatore poi di operare nel massimo dell'informazione con la migliore informazione disponibile dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista di una serie di altre tematiche di tipo sociale. E quindi allora passiamo davvero a Mandela, che tu suggerivi, perché in terza, certo, pagina abbiamo dedicato, insomma, un omaggio al grande Nelson Mandela. Lo abbiamo fatto con due articoli, con quello che in Italia probabilmente è stato il massimo studioso delle vicende recenti del Sudafrica, Marcello Flores, oltre a un grande studioso, grande scrittore di diritti umani. Però abbiamo anche una piccola intervista, su questa mi soffermerei un attimo, di un grandissimo artista, William Kentridge. William Kentridge è un artista di fama internazionale, tra l'altro in Italia rappresentato da una gallerista molto importante lì a Roma. E qui Flavio Foradini gli fa un'intervista proprio dopo la scomparsa di Mandela. E peraltro Kentridge aveva il padre di Kentridge, era stato difensore di Mandela, e tutta l'opera di questo grande artista è impregnata delle tragedie, insomma, del Sudafrica, degli anni in cui appunto ancora vigeva l'apartheid, e fa un ritratto abbastanza impietoso, abbastanza controcorrente, non lo santifica più di tanto, gli rende omaggio per la sua grandissima genialità e generosità, ma dice anche che è uscito dalla scena politica negli ultimi, cioè alla fine degli anni 90, e che insomma molte delle scelte che aveva fatto in precedenza non erano più all'altezza del suo grande del suo grande mito. Aveva messo il ruolo di chiave del governo anche amici suoi che però non erano particolarmente competenti, ma poi soprattutto della situazione attuale, che è abbastanza drammatica in Sudafrica, Kentridge insomma non dà comunque la colpa a Mandela, ma dice è semmai il paese che gli ha voltato le spalle. Non è lui che, nonostante questi errori, ha voltato le spalle al paese, ma è il paese che si è dimostrato assai meno generoso di lui, certo, troppo preso da egoismi e da incapacità appunto di vedere, sicuramente, di avere una visione più ampia. Sicuramente adesso, Armando, la morte di Mandela poi aprirà anche a, come dire, il paese a fare i conti con se stesso, senza più questa grande figura che in qualche modo forse, esatto, anche oscurava e insomma limitava un po' la visione delle contraddizioni attuali. Ancora un minuto per chiudere con, io so che anche oggi pubblicate un racconto, un bel racconto. Ah, questo è un racconto davvero mitico, perché tutti coloro che hanno letto Il giovane Holden di Salinger sapranno che a un certo punto nel romanzo il protagonista, il giovane Holden, dice che c'è un racconto che gli è piaciuto di più in assoluto, e parla di questo, che appunto è il suo scrittore che lui predilige, che è Ring Lardner, che è un autore che è veramente esistito, che non era, e noi pubblichiamo proprio il racconto che Giovane Holden considera il migliore in assoluto, quello che lo aveva sconcertato, quello che lo aveva ucciso addirittura per il modo in cui era scritto. È una specie di si intitolava Ci sono sorrisi, è l'incontro di un poliziotto americano con una ragazza che mentre la ferma per guida pericolosa praticamente se ne innamora, fa poi dei giri in macchina nel tempo con lei e poi la cosa finisce in tragedia. Ma è un racconto veramente leggibilissimo. Il resto dovete andare a leggerlo sul Domenicale di oggi. Noi ringraziamo Armando Massarenti ancora, buona domenica, grazie, a domenica prossima. A presto, buona domenica a tutti. A parlare di trasporti, di mobilità sostenibile, di trasporto pubblico locale, non sono mancati anche questa settimana gli scioperi, per esempio in Toscana, a Pisa, a Firenze, da parte degli autoferrotranvieri. La scorsa settimana avevamo parlato, dopo la manifestazione del Bike to School Day, cioè andare a scuola in bici per i bambini, con il sottosegretario ai trasporti D'Angelis, che aveva detto: stiamo lavorando, il governo sta facendo qualcosa per la mobilità sostenibile, siamo stufi di parlare degli esempi virtuosi delle capitali del nord, Londra, Parigi, eccetera eccetera, moderne ed ecologiche, noi che stiamo solo a guardare, dobbiamo farlo anche noi, aveva detto il sottosegretario ai trasporti D'Angelis. E allora, per una volta, c'è una rete europea per una mobilità sostenibile che vede coinvolta, oltre a città del nord Europa, anche una piccola città italiana. Si tratta di Lucca, noi abbiamo convocato il sindaco di questa città, Alessandro Tambellini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. all'indomani di una conferenza che si è svolta proprio nella sua città. Sindaco, la conferenza internazionale Città Logica, una rete, come dicevamo, che vi vede protagonisti, in Italia almeno città pilota, insieme ad altre città europee, per promuovere proprio questo, una mobilità sostenibile. Intanto, prima poi di parlarci di cosa fate voi a Lucca per meritarvi tutto questo, ci racconti di questo incontro internazionale, chi coinvolge e di che cosa state parlando? È stato un incontro internazionale che ha coinvolto città italiane e anche città dell'Europa, soprattutto del nord, ma anche della Spagna, perché era presente anche la città di Burgos, che insieme a noi è protagonista di questo progetto europeo su scala molto larga. Poi ci sono città olandesi, città svedesi, città norvegesi. Quindi la soluzione che si cerca di dare soprattutto ad ambiti urbani che siano caratterizzati da centri storici complessi, perché i centri storici per definizione, appartenendo a un'organizzazione urbanistica del passato, hanno sempre elementi di complessità per quanto riguarda la movimentazione delle merci. Ebbene, queste città hanno studiato insieme una mobilità diversa delle merci, soprattutto potrebbero essere anche dei bagagli degli alberghi, oppure anche poi successivamente delle persone nel contesto di riferimento, per poter ottenere un servizio migliore con impatti di carattere ambientale, anche questi, in questo caso minori. Ecco, si tratta di questo, si tratta dell'uso di luoghi dove le merci arrivano, dove si riuniscono e dai quali sono poi ripartiti attraverso mezzi elettrici nel contesto che abbiamo preso come riferimento, cioè nell'ambito urbano che abbiamo preso come riferimento. Certo. Si tratta di questo. E quindi il convegno, diciamo, serviva anche per lanciare questa rete a livello europeo, Città Logica. Ci dica però come a Lucca avete risolto alcuni di questi problemi di mobilità sostenibile, e quindi qual è la vostra esperienza da questo punto di vista, Sindaco? L'organizzazione dovrebbe riguardare l'intera logistica, perché sappiamo che cosa si intende per logistica: la messa a punto dei servizi utili per far sì che un ambito urbano possa vivere con standard di rendimento migliori per quanto riguarda le attività proprie che lo caratterizzano. Ebbene, a Lucca abbiamo creato Lucca Port, è un centro di raccolta delle merci a servizio del centro storico e della immediata periferia, e da questo centro di raccolta, che non serve soltanto però come raccolta merci, ma può servire anche come magazzino per raccolta di mobili in trasferimento, per traslochi o altre cose. Ebbene, da questo punto di raccolta si diramano poi dei mezzi elettrici che operano le consegne. Naturalmente le consegne possono essere in entrata o anche in uscita, nel caso che si reputi utile poter servire a domicilio anche chi ha fatto una spesa consistente in città, per esempio. Ma trattasi di un servizio pubblico o privato? Si tratta di un servizio pubblico in questo momento. Sì? Si tratta di un servizio pubblico che, tu come tutti i servizi contendibili, certo, perché si parla poi di servizi contendibili, andrà probabilmente messo a gara e sarà messo a gara. Però ecco, in questo momento è un servizio pubblico regolato dalla società che si occupa dei parcheggi, in particolare, ripeto, in questa fase. Poi successivamente sarà un servizio messo a gara. E invece per quanto riguarda la rete Città Logica che state portando avanti appunto con tutte queste altre città europee, qual è, diciamo, la visione del posizionamento italiano rispetto a quello che si fa nel resto d'Europa? Voi ci state provando, almeno per quanto riguarda il mobilitamento delle merci. Sappiamo che c'è un movimento che da un po' di tempo in Italia si sta spingendo molto, la mobilità nuova, sintetizzato con uno slogan: pedali, pedoni e pendolari, cioè, diciamo, lasciare un po' la macchina come ultima alternativa, come ultima chance, offrendo però delle, appunto, alternative diverse a chi deve muoversi o muovere delle merci in città, per risparmiare soldi, per risparmiare l'aria e anche lo spazio nelle città e anche delle vite umane, perché sappiamo che la macchina è causa di incidenti. Certamente. Quasi 4.000 vittime l'anno in Italia. Da questo punto di vista, come vede la situazione italiana, Sindaco? Ma la situazione italiana è ancora una situazione per molti versi arretrata. In generale l'uso della macchina è ancora troppo forte. Noi stiamo cercando di promuovere sempre di più l'uso di mezzi alternativi, la bicicletta, sia fatto riferimento all'ambito del mondo studentesco. Ebbene, sa che esistono progetti per far sì che i bambini, là dove è possibile, possano andare a scuola a piedi in sicurezza. È un'esperienza che noi a Lucca stiamo promuovendo, e direi con successo, per evitare che là dove è possibile andare a piedi come si faceva un tempo, si possa fare ancora, naturalmente in condizioni di sicurezza. Gruppi di bambini, a volte accompagnati, comunque l'esperienza ci porta a dire che queste sono le vie da seguire, così come in altri contesti. Nel contesto del trasporto pubblico locale abbiamo ancora delle difficoltà indubbie, che sono peraltro registrate in tutte le parti d'Italia, perché il trasporto pubblico da noi è ancora molto problematico. Ma riuscire a realizzare un trasporto pubblico che diminuisca il numero dei mezzi circolanti, beh, questo è chiaramente l'obiettivo di qualunque contesto urbano. Ecco, noi, però, sì, in quel senso siamo ancora indietro, ripeto. Quale sarebbe la richiesta numero uno da fare al governo italiano? Ricordo che appunto il sottosegretario D'Angelis la settimana scorsa ci ha detto ci sono soldi in finanziaria, 500 milioni di euro per il rinnovo per esempio del parco autobus in Italia, un investimento che era fermo da alcuni anni. Questa è una prima cosa, basta o ci vorrebbe dell'altro? Che cosa, sindaco? Guardi, il parco auto come vetustà è non vecchio, è obsoleto, quindi il rinnovo del parco autobus è un rinnovo necessario. Si immagini che qui da noi non si fanno investimenti da oltre un decennio. Bene, allora questa è chiaramente una priorità, perché poi quando ci si muove bisogna muoversi con dei mezzi che siano sicuri, che siano in ottime condizioni, cosa che non mi pare molto spesso attualmente avvenga in quasi tutti i contesti. Mi esprimo così perché non ho il polso naturalmente di una situazione allargata, ma soprattutto sul trasporto urbano non si può, sul trasporto pubblico urbano non si può continuare a tagliare. Se si fanno tagli eccessivi è chiaro che si peggiora la qualità del trasporto pubblico, come frequenza per esempio. Inoltre io credo che bisogna puntare là dove è possibile su mezzi alternativi. I mezzi elettrici, là dove è possibile inserirli, vanno inseriti. La bicicletta è un grande mezzo alternativo in città come la nostra. Ci sono città italiane che da questo punto di vista hanno fatto percorsi migliori di noi. Noi ci stiamo provando e creiamo piste ciclabili utili, perché da noi, ripeto, la configurazione territoriale è tale che è possibile raccogliere con quel mezzo persone in un raggio piuttosto ampio, facendo riferimento al centro storico, quindi al cuore della città. E vorremmo che tutto questo avvenisse in un tempo decente. No? E lo vorremmo anche noi, speriamo anche che iniziative come la vostra Città Logica, il convegno La Rete Europea che parte da Lucca, ci aiutino in questo percorso. Grazie al sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, buona domenica, grazie per essere buona stato con noi. A tutti gli ascoltatori e buona giornata a voi. E in bocca al lupo per la vostra Città Logica a Lucca. Noi adesso ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra pochissimo. No more pretending. Buongiorno a Carlo Gabardini. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, intanto ci sono un po' di commenti all'intervista col sindaco di Lucca. Un ascoltatore al 349-238-6666 che dice, hai sentito, no, che parlavamo della città logica, della mobilità. Certo, oggi sono puntuale, diciamo, visto il ritardo che ho fatto ieri, sono molto contento di essere puntuale. Sei stato logico un po' anche. Assolutamente. Tu. E dice questo ascoltatore, Rocco, io vivo a Lucca, ebbene, tutte queste iniziative rivoluzionarie proprio non le vedo. Boh, non lo so. Se non le vede lui che vive a Lucca, beh, un problema. Ci chiami, ci telefoni molto volentieri, che sentiamo così. Beh, insomma, il sindaco parlava soprattutto di questo centro di smistamento logistico delle merci, da dove partono dei mezzi elettrici per il trasporto delle merci in città. Quindi può darsi che se uno non ha a che fare col mondo merceologico, magari non si è accorto. Beh, insomma, sì, però effettivamente. Sì. Ma è meglio che ci chiami, sarebbe bellissimo che ci chiami da Lucca molto volentieri. Oh, adesso rilanciamo il contest di oggi, il personaggio della settimana. Sì, abbiamo dato già un indizio labile. E che indizio hai dato? Abbiamo detto che insomma si tratta di una persona che ha a che fare col mondo della politica, mm-hmm, e che la notizia non è propriamente una bella notizia. Perfetto. E qualcuno già commenta sempre ai messaggi. Beh, insomma, è lo stesso indizio. Questa è ottima, mi sembra un'ottima già battuta. Già si parte con una battuta. Vabbè, abbiamo subito un ascoltatore. Vogliamo sentirlo sia all'800 24 00 24, poi le notizie di Carlo dopo. Però intanto sentiamo Domenico da Salerno. Buongiorno. Salve, buongiorno. Così rompiamo il ghiaccio subito. Sì, prego. Sì, secondo me il personaggio in questione è il presidente Roberto Cota della Lega. Beh, il motivo sarebbe chiaro, perché sappiamo che c'è lo scandalo dei rimborsi elettorali, però non è lui, non è lui. Grazie Domenico da Salerno. Beh, in effetti, insomma, possiamo dire che non è andato lontanissimo, questo possiamo dirlo, così per dire già essere un altro che può essere esatto. Allora do il mio piccolo indizio: non è andato lontanissimo. Poi vuol dire tutto e niente, diciamo. 800 24 00 24, tra poco con altri ascoltatori. Intanto tu oggi ci hai portato qualche notizia. Ho portato perché sono stato ligio, ho visto il mio ritardo di ieri. In realtà ieri dovevo andare alla manifestazione a Roma contro l'omofobia, ma visto il ritardo che ho fatto avevo paurissima di essere in ritardo anche oggi e fare di nuovo, già ho fatto Torino l'altro ieri, andare a Roma e tornare era troppo difficile. Però ringrazio molto perché alla manifestazione contro l'omofobia si è chiusa mostrando il mio video La marmellata e la Nutella in piazza, e quindi mi sarebbe piaciuto moltissimo vedermi nel video in piazza, mi sarei molto emozionato di sicuro. E quindi è andato molto bene. Ringrazio anche le cose cambiano.org, che è il motivo per cui ho fatto il video, ieri, che abbiamo ricordato anche ieri, visto che l'abbiamo fatto qua in trasmissione. Ma passiamo alle notizie. Iniziamo con delle gaffe, direi. Parliamo di Mandela. La morte di Mandela, che ha scatenato ovviamente reazioni e enorme cordoglio in tutto il mondo. Però Antonio Razzi direi che riesce a superare anche l'imitazione che fa Crozza di lui, scrivendo sul proprio sito: ha offerto se stesso alla causa dell'apartheid. Al di là che scrive apartheid con due P, però forse bisogna ricordare a Razzi che l'apartheid è la politica di segregazione razziale. Quindi del governo bianco del Sudafrica, non è esattamente quello che difendeva Mandela, esattamente era proprio il contrario. Però si è confuso, ragazzi. Esatto, ma forse 140 peggio caratteri non ce la faceva a dire. No, questo è Facebook, il suo sito addirittura, quindi è proprio ufficiale, è la sua posizione ufficiale. Invece nella Lega direi che è peggio quello che scrive il consigliere di circoscrizione per la Lega a Verona, Francesco Vartolo, che scrive: finalmente il terrorista Mandela, belva satanata, assetata di sangue bianco, trasformato in eroe dalla propaganda mondialista, si troverà di fronte a tutta la gente che ha fatto ammazzare, con le bombe nelle chiese, con i copertoni incendiati intorno al collo. Ora, direi un'uscita piuttosto infelice, al di là del... Un po' forte. E infatti è stato espulso dalla Lega, così non dobbiamo più chiederci se si dice Vartolo o Vartolo. Non è importante. Rimanendo nel mondo delle gaffe, a questo punto invece su Twitter, Paris Hilton che twitta genialmente: riposa in pace Nelson Mandela, il tuo I have a dream era così stimolante. E diciamo, citando il grande monologo di Martin Luther King, il discorso di Martin Luther King, poi lei si è lei si è difesa dicendo: quello era un fake. La cosa bella è che lei si difende twittando dallo stesso Twitter da cui è uscito il tweet suddetto, dove dice di I have a dream, perché l'ho visto, e quello lì è l'account di Paris Hilton, con tanto di simbolino blu, quello di Twitter, che vuol dire account verificato. Quelli che dicono delle fesserie dai social network a volte dicono: ma non ero io, mi era alzato un attimo dal computer, è arrivato uno che mi ha fatto uno scherzo. Esatto, che uno dice: ma con chi abiti? Nel senso che è arrivato uno dove? È con chi abiti? Abiti con della gente molto ignorante lì in casa, evidentemente. Poi anche se fosse I have a dream, definirlo stimolante. Ne parliamo. Forse qualcosa di più. Passiamo a una notizia. Se potessi avere 1.000 lire al mese, si cantava una volta. Sì. Adesso pare che questa cifra, aggiornata ad oggi, è 26.000 euro all'anno. La notizia viene da Londra, ma in realtà lo studio è fatto da due economisti italiani, Eugenio Proto e Aldo Rustichini, e indica che chi ha un prodotto interno lordo pro capite più basso dei 26.000 euro non è mai abbastanza felice, chi ne ha uno più alto nemmeno, perché comincia ad avere aspirazioni di una casa sempre più bella, di un tenore di vita sempre migliore, vuole comprare cose più costose e ovviamente non riesce ad acquistarle, e quindi ansia, stress e infelicità. Sì, insomma, fatti i conti, chi ha 26.000 euro sta bene, quindi esattamente stanno sopra e sotto. Sì, in realtà poi lo studio è più interessante di questo, perché alla prima lettura anch'io avevo capito semplicemente che fosse se guadagni 26.000 euro. In realtà è riguardo il prodotto interno lordo, perché in realtà se tu ne guadagni 26.000, ma sei in un paese dove tutti ne guadagnano 100.000, è un problema, perché inizi a essere invidioso del vicino, il vicino c'ha la macchina più bella, la vuoi anche tu, fai un mutuo, prendi un prestito e ti rovini. Quindi in realtà è più interessante il meccanismo. Finisco con una notizia che viene da Chiusi, dove il comune ha deciso che per scoraggiare, soprattutto sensibilizzare a non parcheggiare nei posti auto riservati ai portatori di handicap, ha inventato delle false multe, che sono identiche come grafica e come dimensioni alle vere multe, così uno da lontano si spaventa moltissimo, ma hanno apposto sopra una frase molto bella, che è: se vuoi il mio posto, prendi anche il mio handicap. Condivido molto il meccanismo. Poi ovviamente anche qua la prima reazione è: ma scusami, se è il comune che lo fa, già che mette il cartellino, perché non può mettere la multa vera? Perché non è così. In realtà questi cartellini verranno messi dalle due associazioni che appoggiano questa iniziativa del comune, che sono l'Associazione Nazionale Invalidi e l'Associazione Nazionale Invalidi e Mutilati del Lavoro. Speriamo, quindi, che serva, però, perché a volte queste persone sono in civiltà tale per cui forse neanche questo incentivo, questo meccanismo di farli sentire. E sarà forse che io, bravissimo, sarà di sentire, perché il bello di questa multa è che sopra c'è scritto: pagamento in senso di colpa. Bella, bella. Da dove veniva? Da Chiusi? Chiusi, sì signori. 800 24 00 24. Tra poco torniamo anche con gli ascoltatori adesso, però voglio farti sentire, a te che sei un fanatico di Twitter e dei social network, e anche agli ascoltatori, una musichetta. Wikipedia Song, la canzone di Wikipedia, che è, come molti sanno, forse non tutti, l'enciclopedia su internet, online, che si aggiorna. L'enciclopedia più grande del mondo, è aggiornata da tutti gli utenti, cioè chiunque può aggiornarla. Ed è incredibile la velocità con cui si aggiorna, succede una cosa e dopo due minuti. Sì, soprattutto è incredibile la veridicità di questa enciclopedia, perché è stato fatto un calcolo che, siccome c'è, diciamo, potenzialmente 7 miliardi di persone che possono sia scrivere, ma soprattutto controllare che le cose scritte da altri siano corrette, in realtà il grado di errore era stato calcolato che era basso tanto quanto l'enciclopedia britannica. Questo, insomma, perché se spesse volte uno dice: ma l'ho letto su Wikipedia, ho capito, ma chiunque può scrivere. Faccio un esempio: sulla pagina mia personale di Carlo Gabardini di Wikipedia, che non ho fatto io ovviamente, ci sono anche delle falsità, io non le correggo perché non sono particolarmente interessato, ma siccome chiunque può scrivere, quindi il grado di errore esiste, soprattutto sulle cose piccole, nel senso che chi va a controllare la voce Carlo Gabardini? Nessuno, e va benissimo anche che sia erronea, ma invece è certo che giustamente, mentre la voce, che ne so, Shoah, giustamente ci sono delle persone molto più interessate che vanno a controllare. Però c'è un altro aspetto oltre alla veridicità, il fatto che, insomma, sembra che tutti peschiamo dalle stesse fonti, e contro il rischio copia, il rischio plagio, ci sono delle università che si stanno muovendo. Per esempio la Bicocca e la Bocconi di Milano hanno messo a punto un software antiplagio, perché insomma gli studenti non fanno altro che andare a pescare, a copiare da internet, un caso in cui le nuove tecnologie ci aiutano ma anche ci impigriscono. Noi vogliamo parlarne di questo, ma anche un po' di una riflessione su come utilizziamo appunto le nuove tecnologie, i social network e internet, soprattutto con un grande personaggio, un filosofo che ha scritto dei libri e con grande entusiasmo ci parla di come possiamo vivere positivamente questo rapporto con le nuove tecnologie. Io l'ho visto parlare qualche tempo fa e sono rimasto a bocca aperta. Franco Bolelli, buongiorno, buona domenica. Buongiorno a voi, grazie. Abbiamo tirato giù dal letto forse. Sì, più o meno. Esatto, è un orario un po' incivile, la domenica, però siamo qua. Allora, io voglio leggere intanto l'incipit, anzi la, un pezzettino della, della seconda di copertina dell'ultimo libro. Si fa così perché un personaggio che scrive questo, non potevamo non invitarlo. Si fa così, racconta come il solo modo per non lasciarsi sopraffare dal senso di crisi che oggi ci attanaglia sia rilanciare il nostro potere inventivo e vitale, perché noi siamo sempre stati in tutta la nostra evoluzione più forti dei nostri fallimenti. Ora, noi che abbiamo un programma che si chiama Si può fare nel nostro piccolo mondo, non potevamo, come dire, non chiamarla, non averlo qua e magari avercelo sempre tutte le domeniche. Bolelli, intanto vabbè, sono tante le cose da dire. Parlando di nuove tecnologie, perché lei ci invita a pensare che insomma è positivo il rapporto che noi dobbiamo e possiamo avere con internet, con i social network e con le nuove tecnologie? Sì, ma perché se facciamo l'elenco delle opportunità e dei mutamenti che noi abbiamo tra le mani e delle possibilità di scelta che abbiamo tra le mani, sono 100 volte più grandi di quelli che avevamo 10 anni fa. Dopodiché noi possiamo farne l'uso buono o cattivo, non è che delle tecnologie sono un beato laudatore, basta, ne vedo una serie di effetti collaterali, ma questo riguarda qualunque evoluzione, nel senso che ogni evoluzione è la conquista di qualcosa attraverso la perdita di qualcosa, dobbiamo accettare che sia così. Quella che a me piace più di tutti è il fatto che noi in qualche modo, anche psicologicamente, stiamo sempre più diventando autori di noi stessi, nel senso che noi ci siamo abituati ormai, ma non poche avanguardie, ma decine di milioni di persone ogni giorno si alzano, scrivono, raccontano, mettono idee, mettono progetti, mettono foto, mettono immagini, siamo diventati produttori di contenuti. E questo, secondo me, qualcuno dice sì, d'accordo, ma i contenuti che vengono messi su Facebook eccetera al 70% sono di bassa qualità, ed è vero, e ovviamente alzare il livello della qualità è un punto fondamentale, ma il punto fondamentale secondo me non è questo. Il punto fondamentale è che milioni di esseri umani hanno l'opportunità di raccontare se stessi, cosa che fino a qualche anno fa non era possibile. E a me interessano gli effetti psicologici di tutto questo, cioè come persone che non sono più soltanto pubblico passivo, spettatori, pubblico generalista, possono cambiare il loro approccio al mondo. Io credo che questo sia l'elemento fondamentale. Bolelli, però questa cosa è chiara, no? Lei dice insomma in ogni evoluzione noi abbiamo delle grosse opportunità, delle grosse potenzialità, si perde qualcosa, bisogna essere disposti a perdere qualcosa per accettare questa sfida. Nel caso di specie, che a noi ci ha fatto un po' sorridere, però è vero che parlando di scuola in particolare, no? E di cultura su internet, abbiamo la possibilità di ricercare tutto, tantissime cose, è incredibile, però poi l'ordine che ci dà Google o un altro motore di ricerca è un ordine gerarchico, spesso ci si ferma alla prima pagina. C'è il rischio, come temono queste università, di copiare e di ridurre, lei che tra l'altro è un professore universitario, i suoi studenti copiano da internet? Sì, ma mi sembra una buona cosa, cioè nel senso che accrescono le proprie fonti. Io non ho nessun rimpianto per quando andavo a scuola, e comunque anche lì c'erano delle fonti imposte dall'alto, nel senso che la scelta dei libri di testo o la bibliografia consigliata più o meno imposta per le tesi di laurea eccetera eccetera è infinitamente più rigida di quello che noi abbiamo in questo momento a disposizione. Per quanto ci possa essere una gerarchia su Google nell'ordine delle notizie eccetera eccetera, ci dà comunque 20, 30, 40 opportunità di scelta, mentre prima ne avevamo uno o due. Non è poco. Non è poco, però insomma questo fatto di avere la facilità di copiare è un po' inquietante, perché cioè si fa con un Ctrl C, Ctrl V, in effetti uno si porta a casa pezzi e pezzi. Adesso però, ripeto, è in arrivo questo software antiplagio, quindi sì, basta, perché è giusto, bisogna usarle con intelligenza le fonti, se no. Perché un altro concetto, se uno copia e basta, vabbè, evidente non va bene. No, cioè, ovviamente che, no, cioè, proprio no. Lascia anche www. Diciamo, no, sì, certo, quando esatto, copia e incolla. Sì, perché questo si possono raccontare. Un altro concetto bello del libro di Bolelli è questo: che queste grandi possibilità, l'ha già detto, si devono accompagnare ad una aumentata capacità di scelta, un'aumentata capacità di come dire, di cognizione, perché altrimenti abbiamo grossi strumenti, però messi in mano a persone non preparate. Però come si ottiene questa preparazione etica, morale, non so, diciamo di base per l'utilizzo poi delle nuove tecnologie? Come si insegna questa cosa? Io credo credo che non si insegni, credo che si impari, nel senso che poi c'è chi non la imparerà mai, ma questo avveniva anche prima con le vecchie tecnologie, con qualunque cosa, qualunque strumento noi abbiamo a disposizione, è sempre stato lo stesso metabolismo, la stessa dinamica del mondo. Io credo che si impari con l'allenamento, cioè, credo che si impari con il fatto che più noi andiamo a cercare, andiamo a vedere, abbiamo possibilità di scelta e in qualche modo ci viene voglia di fare la nostra sintesi personale, aggiungere qualcosa che lì non c'era ma che noi abbiamo visto da un'altra parte. E credo che più noi abbiamo la soddisfazione di elaborare qualcosa anche di piccolo nostro, più ci viene voglia di elaborare qualcosa in più. Questo non vale per tutti, come ovvio, ma come dire, anche se questa fosse un'elite, e probabilmente è un'elite quella di cui sto parlando, però non è più un'elite come avveniva fino a 20 anni fa, cioè di alcune migliaia di persone illuminate, è un'elite di alcune decine di milioni di persone. Mettiamo che il 1.200.000.000 di Facebook, di utenti di Facebook, lo usino generalmente male, mettiamo che sia solo il 10% che lo usa bene, il 10% farebbero 110 milioni di persone, non mi fa schifo. Borelli, se può, resti ancora con noi, dobbiamo fare una pausa per il traffico, torniamo tra un attimo. Poi le voglio fare la domanda che mi fa sempre un mio amico, che dice: sì, è vero, si può fare tanto su Facebook e su Twitter, come diceva lei, si scrive tanti contenuti, ma a me però mancano le guide, i personaggi, quelli che scrivevano un libro e tutti lo leggevano e davano la guida. Cosa dobbiamo rispondere a questo mio amico? Poi le voglio chiedere anche come siamo messi a ottimismo di questi tempi. E c'è un'immagine bella del libro Si fa così di Franco Borelli, che è quella delle nostre dita che toccano i tablet con il touchscreen. Dice praticamente che i nostri polpastrelli ci stanno allenando la mente a ragionare in modo nuovo, in maniera più percettiva, connettiva, perché non è un semplice gesto meccanico, ma è qualcosa di più. E c'è qualcosa di molto affascinante in questa idea, secondo me. Però Borelli, c'è questo mio amico che dice: va bene tutto, social network, Facebook, Twitter, tutti scrivono, ma a me mancano i personaggi di una volta letterari, della cultura, quelli che guidavano, dicevano una parola e tutti dietro. Oggi mancano i grandi maestri, però, è così? Assolutamente no, ce n'è più di prima probabilmente, basta cercarli nei posti giusti. Io ne trovo un mucchio nella letteratura, ne trovo un mucchio nella scienza. Noi oggi abbiamo una letteratura scientifica pop in qualche modo disponibile, che qualche anno fa era completamente impraticabile. Qualche anno fa gli scienziati erano più senatori d'avorio, oggi sono in giro a raccontare, a scrivere libri e cose meravigliose. Ne abbiamo secondo me in ogni campo. Bisogna cercare, questo è il suggerimento. Ma sono anche facili da cercare, anzi sono più facili di prima. Perché sono su Twitter. Condivido in pieno suo pensiero, volevo dire. Ma veramente poi in pieno. I link, cioè se io vado su Facebook e vedo il link di un ottimo amico su Facebook, il problema di Facebook è secondo me che bisogna avere degli ottimi amici, quello è il punto chiave, che mi segnala un libro, che mi segnala una cosa, mi viene la curiosità di andarlo a vedere, mentre prima io questa possibilità non l'avevo. Beh, poi un maestro ce l'abbiamo, Franco Borelli per esempio. Esatto. Leggete i suoi libri. L'avremmo messi molto perché male. Se siete perché se avete l'indecisione su come vivere un po' questi tempi, la curiosità, però anche la paura, se leggete questo libro cambiate completamente. Io il libro Si fa così di Borelli lo metto nella lista dei regali di Natale. Avviso, è il primo in lista. Senta, un'altra cosa, perché insomma, parlando di ottimismo, no, che sembra che ci manchi un po' la luce in questi anni, però io a volte ho anche la sensazione che noi ci raccontiamo peggio di come stiamo veramente, che abbiamo a portata di mano un po' quello che dice anche lei, tante cose, però poi non so, ci manca qualcosa per renderci conto di quello che abbiamo, ci manca una guida, ci manca una luce, cosa ci manca per essere oggi sereni e ottimisti, per esempio in Italia? Ci mancano secondo me due cose fondamentalmente. La prima è un po' di sensibilità evolutiva, cioè renderci conto che se in tutta la nostra storia noi siamo sempre alla fine dei conti stati capaci di essere migliori delle porcherie che facevamo, e abbiamo fatto delle porcherie veramente grosse, e se però siamo qui e questo si evolve e quell'altro si evolve, è perché alla fine dei conti, in mezzo a tutte le crisi, noi ce la facciamo sempre. Perché c'è sempre qualcuno che conquista, esplora, inventa, crea, mette al mondo qualcosa che prima non c'era o migliora quello che prima c'era, eccetera, eccetera. Allora, se noi abbiamo questa consapevolezza, non vuol dire che tutto va bene, ci mancherebbe altro. Non basta questo per dare un senso di energia forte e vitale alle persone che se la passano male, questo è del tutto ovvio. L'altra cosa però, secondo me, è anche che in giro di esempi di persone che sono capaci di fare questo oggi ce n'è probabilmente più di prima. Per cui io credo che da un punto di vista generale non si tratta di essere positivi o ottimisti semplicemente, si tratta di essere vitali. Non si tratta di pensare positivo, si tratta di pensare vitale, si tratta di pensare che il dinamismo, il movimento, il mutamento sono degli alleati, non sono, anche quando presentano disfunzioni, problemi, lacerazioni, eccetera, eccetera. Io credo che questo sia il punto fondamentale, cioè la dimensione vitale che si nutre gesto per gesto, azione per azione, movimento per movimento nella nostra esistenza quotidiana e che parte magari da cose apparentemente piccole. Io credo ad esempio che una bussola, un'unità di misura fondamentale siano ovviamente i rapporti con i propri figli, le relazioni sentimentali, eccetera, eccetera. Se noi ci abituiamo ad avere nella nostra esistenza quotidiana tanti gesti vitali, non necessariamente buoni o non so che cosa, essere buona nella vita non è la bontà, è la vita. Io credo che proprio quello che ci manca è un senso vitale, e la vita è fatta di espansione, è fatta di avanzamento, è fatta di crescita. Crescita, secondo me, oggi è la parola fondamentale. Questo è Franco Bolelli. Grazie. Grazie mille, grazie veramente. A voi, buona giornata. Buona domenica, buona domenica. E noi l'abbiamo voluto con noi e spero che lo avremo ancora. Sì, tutte le domeniche, direi. La domenica è proprio è il giorno di Bolelli. A darla un po' di energia vitale ogni volta. Abbiamo velocemente la possibilità di sentire un paio di ascoltatori, se vogliono intervenire su quello che abbiamo detto sin d'ora o indovinare il personaggio della settimana. Flavio dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccolo. Allora, ascolti, io volevo sentire il personaggio della settimana. Mi ha colpito abbastanza la storia di Grillo con Daglia e i giornalisti, o la giornalista in questo caso. Quindi secondo lei il personaggio è Grillo, il suo voto va su Grillo. E in effetti Grillo ha fatto questa cosa sul suo blog contro la giornalista dell'Unità che li ha criticati, però non è lui. Purtroppo adesso poi no. Dovremo forse dare un altro indizio dopo il giornale radio. Adesso però sentiamo un altro ascoltatore, Antonio da Torino, vediamo se qualcuno indovina. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei provare a dare la soluzione. Secondo me è Nelson Mandela. Perché, vabbè, sì, è chiaro, Mandela. Però io avevo detto qualcosa di negativo. E non, vabbè, negativo forse perché è morto. Non doveva morire, ha ragione Antonio, ha ragione. Avrebbe dovuto è sicuramente il più grande personaggio di questa settimana, ma non è il personaggio della settimana. No, ci avevamo pensato. È troppo grande. Era troppo grande, era troppo facile. Non ci siamo ancora avvicinati. Il prossimo indizio, però, direi che lo diamo dopo, così dovete restare con noi. Dopo il giornale radio 800 24 0024. Abbiamo ancora 2 secondi per ricordare l'indizio detto sin qua. È un politico. Sì, signor. E non è del tutto positiva la cosa per cui è il personaggio della settimana. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua cari ascoltatori, ben ritrovati. Intanto abbiamo delle notizie su Twitter, perché sì, ci scrivono c'è Giacomo cose. Biraghi, che su Twitter è Secolo Urbano, che è un nostro stalker quasi, direi, ci controlla 7, 8, e ci bacchetta pure. Esatto. E diciamo, mi redarguisce dicendo che il tweet di Paris Hilton era ritoccato da Photoshop. Non so se questa cosa sia vera o meno, comunque la diciamo per correttezza. Quindi bisognerebbe verificare, bisogna andare sull'account Twitter di Paris Hilton, perché probabilmente questo tweet, se era così stupido, l'avrà cancellato. Ma certamente l'avrà cancellato e ne avrà rifatto un altro con Photoshop e avrà detto che è fatto con Photoshop, insomma, non lo so, mi sembra anche un po' troppo intelligente trovare qualcuno che... ma non lo so, non si sa, comunque la notizia fa ridere lo stesso. Ricordiamo i nostri account, @ si può fare 24 se volete interagire con noi, il mio @ Ale Maurizi, poi Carlo Gabardini. Il mio è @ Carlo Gabardini. Veramente. Allora, all'800 24 00 24 abbiamo un paio di ascoltatori. Cominciamo con Simone che ci chiama da Firenze. Buongiorno Simone. Pronto, buongiorno. Eccolo. Sono Simone. Senti, il personaggio politico è Matteo Renzi. Perché? Che a me, per le sue primarie, ha messo a tacere lo sciopero di ATAS, l'azienda fiorentina del trasporto pubblico, sciopero selvaggio di 2 giorni, e non si è saputo nulla nelle televisioni. Simone, ma lei... No, nel senso che a Firenze è in corso uno sciopero e siccome ci sono le primarie non viene data la notizia? Lo sciopero è stato il 5 e il 6. Dicembre, sì. Il 6 dicembre senza servizio. Sì. Firenze. L'abbiamo saputo. Non è stato pubblicizzato. Ma non è che sono state fatte le primarie per oscurare lo sciopero degli autisti di Firenze, questo no. No, cioè, no. Però ecco, no. Un piano geniale sarebbe. Sarebbe un piano diabolico. No, lei ha. Però, sì, è coinvolto in questa vicenda, Simone? Dimmi. Lei in che cosa è coinvolto in questa vicenda? Io sono un autista. Ah. E ha fatto sciopero anche lei? Sì. Allora usi questi 30 secondi per darci un messaggio alla nazione e comunicare il problema. Allora, il signor esempio, il signor Matteo Renzi è molto coerente. Disse: andate a votare il referendum dei mezzi pubblici, dell'acqua e di tutti i servizi pubblici. Votate bene. Poi ha venduto ATAF ai privati e ha privatizzato un po' l'azienda dell'acqua. Mancano 5 secondi. Fate per bene. Fate molto per bene. Va bene, Simone. No, ma non volevo interromperla. No, basta così, perché questo dà le indicazioni di voto. Oggi si vota, non si possono fare queste cose. Grazie, Simone. Ah, giusto. Questo è il suo intervento. Comunque, arrivederci, grazie. Naturalmente la risposta è che non era giusta, esatto. Personaggio, vabbè, però la parte interessante è quella, giustamente, come tu chiedi. La parte interessante è capire come mai pensano che sia quello il personaggio, cioè qual era la brutta notizia di Renzi. È stato interessante. Sì, adesso sentiamo un altro ascoltatore, poi diamo un altro indizio. Francesco dalla provincia di Imperia, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire? Volevo fare un appunto io sulle delocalizzazioni, sui tagli ospedali e via discorrendo. Un pensiero mi è parso per l'anticamera. Qua in Liguria si fanno 200 chilometri per farsi curare, mentre abbiamo comuni di 3.000 abitanti con l'anagrafe sotto casa praticamente. Ora bisognerebbe un attimino riflettere su questi comuni molto piccoli che danno dei servizi che si potrebbero loro delocalizzare e creare delle strutture un attimino più funzionali. No, però non ho capito, Francesco. Allora, intanto la notizia l'ho data io dalla prima pagina della stampa, l'elenco delle 175 ospedali che dovrebbero chiudere perché hanno meno di 120 posti. Non ho capito, lei in Liguria lamenta che ci sono troppe poche strutture locali, non ho capito. Sono troppo distanti. Quindi lei è contrario a questo. Io sono contrario a questo, e dico anche questo. Invece ci sono troppi comuni piccoli, troppi servizi comunali ci sono. Però, la polizia municipale si potrebbe riunire e andare con un. La direzione, Francesco, in cui si sta andando è quella di accorpare i servizi, anche quelli dei comuni, centralizzandoli un pochettino, magari facendo fare qualche chilometro in più alle persone, però avendo servizi migliori, e anche per quanto riguarda gli ospedali, soprattutto l'idea è un po' quella. Comunque, vabbè, però questo. Gli ospedali viene a prescindere anche il servizio di pronto intervento e 118, che secondo me è basilare. Sì. Ben vengano gli ospedali con dei servizi fatti bene, dove c'è un'equipe medica. Questo anche è vero. Maturata, però bisognerebbe allora superare alla mancanza di piccoli ospedali con un 118 efficiente. Questo qua è il discorso. Questo è vero, su questo credo che lei abbia ragione. Io personalmente sono d'accordo. Poi sa come succede: si parte col 118, poi si cominciano a creare strutture, reparti, perché anche noi dobbiamo avere il reparto di pediatria di quello e quell'altro. Fanno 4 parti all'anno, poi qualche cosa va storto e non è bello. Grazie, Francesco. Però un elicottero già salverebbe parecchie vite. Grazie. Buona giornata. Grazie anche a voi, buon lavoro. Grazie. Beh, questa cosa qua del taglio degli ospedali, naturalmente, allerta, fa paura. Divide poi anche le persone per quanto riguarda i singoli giudizi. Staremo a vedere poi se diventerà concreta questa chiusura di 175. Poi non sono neanche moltissimi ospedali con meno di 120 posti in Italia. Però non sono tantissimi, dici? No, penso di no. In Italia siamo 60 milioni. Vabbè. Tra poco con gli ascoltatori di nuovo. Adesso ah no, arriva un'altra cosa. Adesso arriva un'altra appunto. Cosa. Aspetta, arriva. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. And order piace questa scelta musicale? Moltissimo. Me lo sai pronunciare in inglese? Rome wasn't built in a day. No, io non ci riesco. Roma non fu costruita in un giorno. Parliamo infatti di costruzioni, in questo caso però abusive, illegali, infatti interrotte, e di una cosa che accade vicino Roma, per l'esattezza a Torre Marancia, dove è stato bloccato una, per il momento una possibile colata di cemento in una zona dove c'erano alberi secolari, nonché scavi archeologici, una cosa contro cui si battono da anni una serie di comitati di cittadini. È intervenuta l'autorità giudiziaria, io dico per fortuna. Salutiamo Giuseppina Granito, portavoce del comitato Stop I60. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Domenica. Come mai il nome del comitato I60? I60 perché è la vecchia denominazione del piano regolatore del 1962, da cui deriva parte di questo progetto. Pensate, dal 62 si parte. Una lottizzazione che è stata, credo, poi autorizzata concretamente dall'allora sindaco Rutelli. Adesso poi lei ci spiegherà tutto. Siamo passati poi con Veltroni, eccetera, eccetera. Intanto, prima di fare una pausa per il traffico, ci dica una cosa. Il cantiere è stato effettivamente bloccato, sigillato. Adesso non si procede coi lavori? No, io vorrei un po' correggere il tiro, nel senso che... Allora aspetti, devi correggere il tiro, lo facciamo dopo con tutta calma, dopo il traffico. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, insieme a Giuseppina Granito, per portavoce del comitato Stop I60, per parlare di questo progetto, lo stop a questo progetto che noi abbiamo salutato positivamente. Intendiamoci, non ce l'abbiamo, non vogliamo fermare il progresso, l'evoluzione o anche l'edilizia in Italia, però le cose che si devono costruire, che si costruiscano nella legalità, non sopra degli scavi archeologici, non a fianco ad alberi secolari, non in posti dove non bisogna farlo. Una storia questa qui, con la premessa lunghissima, che viene da anni e anni. Rispetto a quello che ho detto, già lei voleva fare una precisazione? Sì, allora, innanzitutto vorrei precisare che il coordinamento non è contro il parco di Tor Marancia restituito alla cittadinanza, però non siamo contro il parco nel rispetto dei vincoli paesaggistici. Ora, attendiamo con fiducia il lavoro della magistratura, che ha sospeso il cantiere per l'allestimento del parco che si trova nella tenuta di Tor Marancia. Parliamo di 26 ettari. Ecco, però chiariamo subito una cosa, perché lei ha usato la parola parco, io avevo parlato di costruzioni, di edilizia. Esatto. Quindi parliamo di tutte e due le cose. C'è un parco, ma sono previste anche 32 palazzine? Di fronte al parco, cioè c'è una strada che è via di Grotta Perfetta, che divide le due porzioni di territorio: da una parte il parco di Tor Marancia con i 26 ettari sequestrati e dall'altra un'area denominata I60, appunto come da vecchio piano regolatore, su cui si stanno realizzando 34 palazzine di 8 piani, ovvero 440.000 metri cubi di cemento, in una strada, in un quartiere privo di mobilità, e quindi con le conseguenze che tutti possono immaginare. E voi da quanto tempo, diciamo, vi state mobilitando contro questa cosa qua? Almeno dal 2003, da quando fu siglata convenzione per la compensazione, una delibera dell'allora giunta guidata da Walter Veltroni. Allora dico io una cosina, se vediamo se questa volta dico bene. Compensazione perché diciamo il progetto veniva dalla giunta Rutelli, dopodiché per un intervento della sovrintendenza che aveva diciamo messo i bastoni tra le ruote, allora in compensazione al costruttore è stata data la possibilità di costruire altrove. È questo? Sì, dunque la vicenda è molto complessa. Parliamo di compensazioni derivanti dalla giunta Rutelli, in quanto nel 97 la giunta Rutelli previde nel piano delle certezze, aveva previsto che ai costruttori fossero date, che non potevano realizzare alcune cubature su determinate aree, fossero date in compensazione cubature in altre aree. Tor Marancia è successiva al 97, però si verificò questo caso, che i costruttori avrebbero voluto edificare proprio nel parco, sulla tenuta di Tor Marancia. e lì ci fu una sollevazione generale da parte dei cittadini e delle associazioni di ambientalisti. Perché ci fu una sollevazione? Ci spieghi qual è il motivo per cui questa lottizzazione, questa costruzione, secondo voi non si deve fare? Dunque, su Tormerancia ci fu una sollevazione, in quanto parliamo di un parco tutelato al pari del Parco Nazionale del Circeo o del Parco Nazionale d'Abruzzo, quindi era logico che ci si opponesse. Però il discorso è questo: i costruttori, vorrei precisare, non avevano allora alcun titolo abilitativo per costruire sull'area. Voglio dire che la compensazione nasce dal nulla, almeno quella di Tormarancia, perché ci siano diritti edificatori bisogna avere un titolo abilitativo che sia perfezionato, come si dice in termini giuridici. Cioè, se avessero avuto già allora dei permessi a costruire su quell'area, sì, avrei potuto capire il riconoscimento, il risarcimento in cemento armato su un'altra area, ma non avevano questo titolo perfezionato, c'erano soltanto, ci sono degli indici di edificabilità che non danno diritto a nulla, quindi nasce tutto da un elemento inconsistente, mi si permetta di dire. È complesso, naturalmente, questa vicenda. Io dico anche agli ascoltatori di avere un po' di pazienza per cercare di capire, quantomeno di approcciarsi a questa storia, che però dimostra quantomeno due cose. Prima di tutto che, insomma, bisogna stare ad ascoltare i cittadini, i comitati delle persone quando hanno delle obiezioni da fare, perché insomma, giustamente non è che chi si oppone semplicemente è contrario al progresso, ci sono delle cose da capire, degli interessi. L'altra questione importante è che in genere in Italia si va dopo a piangere sul latte versato, a dire: ah, è stata costruita una lottizzazione qua dove ci sono a fianco agli scavi archeologici, là dove c'è un parco naturale, eccetera, perché le cose si fanno forzando piano piano, prima un cavillo di una legge poi un altro. E invece in questo caso saremo ancora in tempo, credo, a non fare uno scempio, no? È quello che noi chiediamo. Allora io voglio distinguere, sì, il parco di Tormarancia, la tenuta di Tormarancia ha visto posti i sigilli, perché evidentemente secondo coloro che indagano, ovvero il Corpo Forestale dello Stato e la magistratura, poi sì, si sono verificate delle infrazioni, delle violazioni ai vincoli paesaggistici. Ora noi attendiamo i risultati dell'indagine della magistratura molto serenamente. Se ci sono stati vincoli, va bene che ci siano anche le sanzioni. Di fronte i lavori non sono stati bloccati e quindi si sta procedendo con le opere di urbanizzazione primaria in attesa di iniziare l'edificazione di questi 400.000 metri cubi. Allora, lei ha citato giustamente prima delle situazioni in cui poi si piange sul latte versato. Allora, sono sotto gli occhi di tutti centinaia, migliaia di abitazioni dentro Roma che sono sfitte, e però si continua a costruire. È questa la questione, non c'è più bisogno di costruire perché le abitazioni ci sono quelle sfitte. Bisognerebbe ripartire da quello, non autorizzare nuove costruzioni, oppure impegnare anche dal punto di vista economico l'industria dell'edilizia nel recupero del patrimonio abbandonato. Questo è assolutamente prioritario da fare, però poi non succede quasi mai. Noi, come dire, vi appoggiamo, vi sosteniamo, in bocca, grazie, al lupo. E speriamo che salvaguardino i resti archeologici, sì, pregiati, che sono stati rinvenuti nell'area dove si sta costruendo. Se posso permettermi di citarli, è una villa romana di epoca imperiale, una strada in basolato perfettamente conservata, un mausoleo, 40 tombe, potrebbero diventare benissimo un parco archeologico di periferia inserito nel contesto dell'Appia Antica. Magari. Quindi ce lo auguriamo. Potrebbero farlo. Qual è in 20 secondi per chiudere il vostro obiettivo adesso, Giuseppina? Ecco, appunto, la realizzazione di questo, di un parco archeologico, e di fronte alla tenuta di Tormarancia, magari ceduta a giovani cooperative agricole, come per esempio si sta facendo in tutta Roma con gli orti urbani. Ma magari. Sarebbe bellissimo. In bocca al lupo per questo. In bocca al lupo. Grazie. Grazie. Allora, adesso un'altra piccola iniziativa di cura del territorio, completamente diversa, ve la vogliamo raccontare, viene da Cremeno, in provincia di Lecco. La parola magica è incentivo. Se vuoi convincere una persona a fare qualcosa, devi dargli un motivo. E l'incentivo economico è sempre una buona soluzione. Ma se non hai soldi, come fai? Semplice. Puoi pagare in natura. È così. Il comune di Cremeno, in provincia di Lecco, dovendo ripulire un bosco, ha promesso ai volenterosi che si faranno avanti di portarsi via un bel carico di legna. Come spiega il sindaco Pierluigi Invernizzi. Il comune di Cremeno no, ha condiviso questa iniziativa perché avendo un bosco pubblico da ripristinare, c'è un intervento da fare di ripristino di quest'area, ha ritenuto opportuno regalare tra virgolette la legna a chi volesse, affinché il bosco venga ripulito per poi procedere con ulteriore altro intervento strutturale di sistemazione di tutta l'area. Quindi, visto anche il contesto economico, visto che la legna viene utilizzata a uso focatico da parte dei cittadini residenti, si è data questa possibilità alle persone residenti di fare questo intervento di pulizia che agevola il comune perché non è un costo di pulizia e ne va a beneficio dei cittadini residenti. Quindi ecco, lo spirito dell'iniziativa è questo, si cerca di collaborare con la cittadinanza per la buona tenuta e la manutenzione del territorio. Insomma, vabbè, questa cosa della cura del territorio, del evitare lo scempio della costruzione di colate di cemento, anche fondamentalmente un po' inutili in posti dove ci sono già case sfitte. E poi si dice rilanciare il turismo, il paesaggio in Italia, ma come fai? No, è verissimo, immagino che ci sia anche la questione solita del fatto che di aprire anche un altro parco archeologico, ci siano le persone che si lamentano anche di quello, però Roma è quello e quindi mi sembra correttissimo. Questo caso si lamentano per il contrario, per il costruisce senza invece rispettare il paesaggio e il territorio. Su Twitter intanto impazza sempre la polemica su Paris Hilton. Ho letto un lungo articolo inglese che in realtà dice che addirittura Paris Hilton si è preoccupata di portare le prove, per cui mentre è stato pubblicato il suo tweet lei era in aereo, quindi effettivamente pare che forse sia un Photoshop. Che quel tweet lì sia, che quel account Twitter sia il suo, non c'è dubbio, perché sono 12 milioni di follower che ha, però può essere che il tweet incriminato, diciamo, sia in realtà messo con un Photoshop dicendo guardate che cosa ha twittato Paris Hilton, e poi uno twitta. Ti appassiona questa vicenda? Sì, mi appassiona molto. Vabbè, esatto. Anche allora, perché vogliamo però dare degli indizi. Ecco, dare degli indizi. E quindi come indizio, bravo, per questo parlo di Twitter e di fake di Twitter, che sono quelli che si fingono un personaggio reale facendo dell'ironia, e soprattutto è molto facile con alcuni personaggi che diciamo sono particolarmente come si può dire, bestie, particolarmente ignoranti piuttosto che particolarmente basta, sennò qua con gli indizi andiamo. No, e l'indizio che do è che il nostro personaggio, diciamo, ha un famoso fake su Twitter, cioè diciamo anche le cose in italiano, perché a me questo fake cosa vuol dire? Non lo sa, te l'ho appena spiegato. Ha un falso profilo su Twitter, l'ho appena spiegato. Ho capito, si chiama fake. Allora invece che Twitter cosa lo chiami? Cinguettio? Sì, diciamo. Ho aperto un account cinguettoso, molto bene, via con le parole. Il nostro personaggio ha anche un falso profilo su Twitter che fa ridere i seguaci su Twitter, i suoi seguaci su Twitter, anche piangere a volte. E sentiamo Olivia da provincia di Monza, buongiorno. Buongiorno, ma con l'ultimo indizio penso di essere fuori strada. Cosa voleva dire? Per me, io volevo dire Calderoli, del Porcellum. Perché? Per il Porcellum. Sarebbe stato in effetti, però più che personaggio della settimana sarebbe personaggio del ventennio, perché sono vent'anni che votiamo. A parte che non mi stupirebbe che ci fosse un fake anche di Calderoli, nel senso che mi sembra uno molto facile da prendere in giro, perché diciamo i fake di Twitter funzionano quando ci sono dei personaggi che hanno un loro modo di vedere la realtà, e quindi Calderoli mi sembra che ce l'abbia molto precisa, è il modo del Porcellum, ecco. Sentiamo un po' Enrica da Milano, buongiorno. Buongiorno. Allora, ascoltando l'ultimo indizio ho cambiato, perché ascoltando l'ultimo indizio penso sia Razzi. Razzi, perché Razzi? Ma Razzi perché è spaventoso che ha scritto che lui è per l'apartheid, quindi che sia ignorante lo sappiamo, ma voglio dire, a questi livelli è impressionante. No, Enrica, non è Razzi. E l'abbiamo data anche prima la notizia, no, di Razzi, che in realtà non l'ha data però su Twitter, ma l'ha data sul proprio sito. E poi comunque non era un fake, non era proprio lui. Non era un profilo finto, ma era proprio lui. Comunque, grazie anche Enrica. Grazie mille. 800 24 00 24. Dopo la pausa aggiungiamo, va, un altro indizio. Molto dopo. Volentieri. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Sentirsi come papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Volete la smart box per due persone, una pizza per due persone, volete anche due biglietti per la mostra di Munch a Palazzo Ducale? E allora dovete indovinare il nostro personaggio della settimana. La settimana è un politico. La notizia per cui è personaggio della settimana non è una notizia propriamente positiva. Ha un famoso fake su Twitter, un profilo non ufficiale su Twitter, ed ha avuto a che fare, anzi ha una cosa in comune con Mario Balotelli. E questo è l'ultimo indizio che stiamo dando in anteprima. Questo è l'indizione. L'indizio decisivo, credo. Spero determinante. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Basta così, non aggiungiamo altro? No. Vuoi dare altri indizi? Ha una cosa in sentiamo comune delle con telefonate Mario Balotelli, e capiamo se indovinano. Sì. Se no, diamo un altro indizio prima della fine. Che manca poco. Molto poco. Mission Impossible. Qua è stata compiuta. Diciamo però, Mission Impossibile. Basta con queste parole inglesi, sembra dire le cose in inglese che non si capiscono. Gabardini. Missione Impossibile. Mission Impossible, la sigla, perché qua è stata compiuta una missione impossibile. E lo esatto. Diciamo anche in italiano. Cioè, che cosa? Ottenere un risarcimento dalla Lehman Brothers. Ah, però quella questa, che ha fatto praticamente fallire notizia. Il mondo intero, esatto. All'origine della crisi, la grande, grandissima, enorme, immensa crisi, un pensionato è riuscito a fare causa alla Lehman Brothers e a farsi restituire 40.000 euro. Grandissimo, enorme, direi. Ma glieli daranno o siccome è fallita, dove li prendono, dove li trovano? Ce l'hanno, gliel'hanno già dati, però adesso credo che ci sia il ricorso pendente. Noi abbiamo convocato non il pensionato, lo lasciamo tranquillo a contare i soldi a casa sua, ma il suo avvocato Carmen Posillipo. Buongiorno, salve. Buongiorno. La decisione presa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, intanto ci racconti, sono 40.000 euro, no? Già sì. Eseguita la sentenza. Sì, sì, e in realtà questo pensionato si era rivolto a un istituto di credito per comprare un prodotto non finanziario, ma per conservare dei soldi in botto, quindi era un prodotto garantito, tant'è che a chiare lettere sul contratto era proprio riportato capitale garantito alla scadenza. Invece, al termine del contratto, quando è andato a restituire e quindi ad incassare la somma, gli sono state restituite 40.000 polizze pari a zero, quindi un capitale nominale di zero, e aveva perduto l'intero capitale investito e conservato in una vita di risparmi. Ma quindi la motivazione è perché lui aveva, gli era stato promesso, cioè lui aveva firmato che dovevano essere solamente bot e invece, erano titoli tossici, giusto? Certo, ed era scritto anche a basso rischio, produceva l'1,5% alla faccia del basso rischio. Mi scusi, glielo chiedo per precisare, perché se no fra un attimo il suo telefono esploderà, nel senso che tutti chiamano per dire se si può fare causa, voglio farla anch'io causa. Quindi in realtà è perché era l'istituto di credito aveva promesso bot. Di facciamoglielo dire a lei. certo, avvocato. In realtà il prodotto che lui voleva acquistare era differente da quello che gli era stato offerto, quindi l'illecito era avvenuto proprio nella mediazione finanziaria, perché spesso questi prodotti hanno delle partecipazioni in altri prodotti sottesi, come in questo caso della Lehman Brothers, per cui nella moltiplicazione dei coefficienti il capitale viene annullato. Così, tant'è però, che... ci dica, per onore di, per dovere di cronaca, come si è difesa la Lehman Brothers in questo caso? Cioè, loro cosa hanno detto? Abbiamo sbagliato, oppure hanno detto no, non è vero, e adesso faranno ricorso? In realtà è l'istituto di credito che si è difeso, perché lui aveva acquistato presso una banca, quindi è la banca che si è costituita dicendo che era comunque un rischio non prevedibile, perché era un prodotto che era ben quotato sul mercato al momento della stipula e successivamente ha avuto un crack, e quindi il consumatore doveva assumersi il rischio, un rischio sicuramente non consentito perché eccessivo, 40.000 euro in 4 anni di vincolo, essere assolutamente persi quando in realtà nel contratto vi era scritto capitale garantito alla scadenza, evidentemente c'era un vizio proprio nella volontà del contratto, tant'è che il giudice l'ha dichiarato nullo e ha condannato al risarcimento del danno per il danno morale, lo stress e lo spavento subito appunto dal pensionato e alla restituzione delle somme. Senta, abbiamo ottenuto La sua carriera subirà un'impennata positiva, avvocato, dopo questa causa? Speriamo che in realtà non ce ne siano tanti, perché comunque ma ce ne sono tantissimi in tutto il mondo. Ma in realtà non ce ne sono tanti di precedenti giurisprudenziali, no, in tal senso. Quello no, è questo il precedente è il suo, è giusto? Bello è quello. Ma in realtà è l'istituto di credito che ha restituito i soldi. Sì, quindi sì. Poi se vuole l'istituto di credito si può rivalere con la Lehman Brothers, ma non è la Lehman Brothers che metti 40.000 euro, non giusto? Personalmente, anche perché ti rivolgi direttamente all'istituto di credito, certo, quando acquisti questi prodotti. Ma l'importante è che qualcuno paghi, perché questo povero pensionato, che lavoro faceva il suo pensionato? Non ho capito, scusi? Che lavoro faceva il suo pensionato? Assistito? No, era un occupato dell'esercito. Quindi era una persona impiegata. Quindi, meglio non farlo arrabbiare. Ma scusi, ma quanto è stato, cioè quanto è valutato il danno per lo spavento? Che questo mi sembra interessante. 5.000 euro il giudice l'ha quantificato. 5.000? Non molto, 5.000 però, euro tanto. Per la paventata, diciamo, possibilità che il matrimonio del figlio, che era di lì a breve, certo, sarebbe potuto saltare in quanto l'investimento economico. Perché in realtà la storia è bellissima. Questo signore investe i soldi per il futuro matrimonio del figlio. Poi va poco prima del matrimonio del figlio e scopre praticamente che non può fare, cioè non può organizzare il matrimonio del figlio, quindi si spaventa moltissimo e dice: come lo dico a mio figlio? Così, diciamo, per raccontare anche la storia, giusto? Ma in realtà, infatti, mi spiace che non abbiamo anche invitato lui, ma lui comunque rappresentava proprio questo argomento e manifestava proprio una meraviglia, perché diceva: come può essere? A me mi avevano garantito che certo, io avrei più. Mi raccomando, ma ci può chiamare se vuole, cari ascoltatori. Prima di sottoscrivere queste cose, state attenti, avete sentito? Molto. Perché, cioè, in un attimo tac vi fregano le cose. Dopodiché, scritte in piccolo, dopodiché bisogna se trovate all'asterisco, perché esatto, l'asterisco rimanda, se trovate un è l'asterisco che vi fotte come Carmen e poi vi salva, altrimenti no, e quindi poi non lo so neanche se vi salva tutti. Vabbè, lei è a disposizione per ulteriori cause, no? Immaginiamo. Certo, faccio questo, è il mio lavoro. Ci saluti tanto il suo assistito. Assolutamente sì, lo farò. E gli dica di chiamarci se vuole, che se chiama entro un quarto d'ora e indovina il nostro personaggio della settimana, si porta a casa una smart box e due biglietti per la mostra di Munch a Palazzo Ducale. Esattamente. Va bene, allora mi concentrerò anch'io ad indovinarlo. Ecco. Sì. Però deve richiamare, perché in quanto qua abbiamo chiamato noi, almeno la telefonata dovete pagarla. Grazie. Grazie mille. Buona domenica. Ciao. Ciao. Avvocato di Santa Maria Capua Vetere. Dobbiamo dare un altro indizio? Dobbiamo dare un altro indizio, perché ci dicono che non indovinano. Allora, ripetiamo l'indizio sin qua. È un politico, la notizia non è positiva. Ha un fake su Twitter, che giustamente tu mi ricordi che è un falso profilo su Twitter. Ha a che fare a... Ha avuto una cosa in comune con Mario Balotelli. Perfetto, e aggiungiamo che è un figlio d'arte. Figlio d'arte. Diciamo che il padre è più famoso. Ragazzi, a questo punto, se non lo indovinate, non ve lo meritate la smart box. Maria Luisa, dalla provincia di Lecco, un'ascoltatrice che però non so se voleva intervenire tanto quanto sul personaggio, ma forse no, anche... Buongiorno. Buongiorno. Prego. Intervenivo perché mi è piaciuto tanti. Intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Mi è piaciuto molto l'intervento del sindaco Cremeno, un paesino in cui io sono di Milano, ma ho trascorso tutta la mia infanzia a Cremeno, e questo discorso dello usufruire della legna caduta, che anch'io, che adesso ho un'altra casettina sopra Ballabio, ai piani Resinelli, vediamo un sacco di legna caduta, io e mio marito la raccogliamo un po', diciamo, ai limiti della legalità, ma poca, sì. E però ci piace l'idea e pensiamo quanto sarebbe bello portare le scuole, i ragazzi a raccogliere, utilizzare questa legna, che ormai penso i proprietari dei boschi sarebbero disposti anche a concedere. C'è stata di recente una nevicata forte, molti alberi sono caduti. E se pensiamo che poi andiamo nei centri commerciali e per acquistare un oggetto di legno spendiamo 10-20 euro, potremmo con beneficio di tutti insegnare ai ragazzi a costruirselo e magari col favore, diciamo, dei proprietari, senza, diciamo, sovvertire la legalità. È vero, comunque, grazie Maria Luisa dalla provincia di Lecco. Grazie mille. La notizia era questa: contro l'incuria nei boschi, il sindaco propone e promette a chi vuole lavorare volontariamente per ripulire i boschi di portarsi a casa la legna. Quindi, tra l'altro, pare dalle cronache che vada a ruba, come diceva la signora, nei supermercati, perché con la crisi molti usano il camino al riscaldamento in quel modo lì. E poi la legna costa moltissimo, quella per il camino, se non ricordo Però probabilmente meno di quello che costa riscaldare. No, certo, dico, ma casa, soprattutto se te la puoi andare a prendere in un bosco, è giusto, male. È giusto, che chi si fa avanti abbia un incentivo. Mauro dalla provincia di Perugia, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, posso le piccolo con piegare. Non lo sentiamo Mauro, lo sentiamo malissimo. Sentiamo solo le vocali. Mauro, sentiamo solo le vocali, che dici? Lo sentiamo male, non si può spostare in un punto magari? Mi sto spostando, mi sento adesso? Sì, sul pianerottolo di casa, pronto? Ecco, adesso lo sentiamo meglio. Io sono il vice sindaco di un piccolo comune, 3.800 abitanti in provincia di Perugia, si chiama Piegaro. Sì? Piegaro si chiama. Sì, sì. Vicino alla zona del Trasimeno. Noi... cioè, mi è venuto in mente, cioè, mi ricordavo quell'intervento che ha fatto prima l'ascoltatrice di Roma sul recupero edilizio. Noi stiamo facendo un intervento che secondo me rientra perfettamente in questa visione. Piccolo comune, in una piccola frazione, stiamo recuperando che è Castiglion Fosco, stiamo recuperando un edificio del 1600 in collaborazione con ADER, comune di Piegaro, per fare edilizia pubblica residenziale. E oltretutto, creando lavoro in un momento come questo qui, in cui le imprese edili, glielo lasci dire da uno che sta sul territorio, soffrono enormemente. Sì. Quindi questo è quello che stiamo facendo noi. Nonostante ci sia domanda di edilizia nuova, sì, noi cerchiamo di coniugare tutte e due le cose. Vabbè, la domanda di edilizia nuova... cioè, la domanda, non lo so se c'è questa domanda di edilizia nuova, dice così, ma io so che c'è molta edilizia abbandonata che andrebbe recuperata, e è economia proprio... anche questa, potrebbe essere attività produttive anche queste, cioè una edilizia di recupero anziché di costruzione, anche perché possiamo andare avanti 20-30 anni, poi non potremo più costruire niente perché non ci sarà più spazio, quindi prima o poi la domanda su come fare per far andare avanti l'edilizia, ma anche per risolvere il problema abitativo, ce la dovremo fare, non è più la risposta a costruire semplicemente nuove abitazioni. Questo è proprio quello che le spiegavo. Grazie, stiamo facendo proprio questo. Grazie al vice sindaco paese. Buona domenica. Umbro, dobbiamo ricordare gli indizi perché non ci stanno arrivando. Il personale. No. Allora, invertiamo l'ordine, partiamo dal più importante. Indizio: è un politico figlio d'arte. Sì, quindi signore. Il padre è più importante, più famoso di lui. Certamente. Ha avuto una cosa in comune con Mario Balotelli. Ha un falso profilo su Twitter. Ed è stato protagonista questa settimana di una notizia non positiva. Vabbè, insomma, aggiungo. Il suo soprannome è quello di un pesce. Vabbè, ragazzi, cioè... basta, che... io vado a casa. Me ne vado. Me ne vado. Il pesce, dai. Maria, abbiamo già un'ascoltatrice da Pavia. Maria? Sì, pronto? Maria, buongiorno. Maria, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire il figlio di Bossi, Renzo Bossi, giusto? E lei ha vinto! Brava. Ha vinto! Ha vinto! Però ci deve dire anche perché. Qual è la notizia? Vediamo se la sa. È stato indagato, ma non solo per la laurea falsa, brava, anche per... dell'uso improprio del denaro pubblico. Brava, no, è quello della falsa laurea, la notizia di questa settimana, perché lui è indagato, a quanto si apprende, tra l'altro un'intervista che ha fatto Radio 24, per la questione della falsa laurea, quindi falso pubblico, corruzione e forse anche associazione a delinquere, perché non è l'unico italiano ad aver avuto una finta laurea dall'Albania, pare che ci sia tutto un giro di laureati. È bello che qua tutti parlano tutti malissimo degli albanesi qui, però le lauree albanesi vanno benissimo evidentemente. E comunque, signora, lei aveva indovinato prima che io dessi l'ultimo indizio, giusto? Perché era già al telefono. Sì. Ah, sono contento perché avevo paura di aver dato un indizio troppo facile. Mi sentivo molto in colpa, pensavo di essere eliminato come stagista. Vedevo Alessio che mi guardava un po' come per dire: caro Carlo, la tua avventura a Radio 24 finisce qui. E abbiamo così assegnato la Smart Box con una pizza per due persone, ma anche i biglietti per la mostra di musica a Palazzo Ducale a Maria da Pavia. Grazie. Grazie mille, buona grazie domenica. A voi. Traffico, torniamo tra un attimo. C'è niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ci sono un po' di sms al 3422386666 sul personaggio della settimana, interessanti, perché c'è chi spara Nicky Vendola, chi indovina Renzo Bossi, però c'è uno che alle 10.48, perché noi abbiamo anche l'orario, dice è Umberto Bossi il personaggio, non riesco a prendere la linea, ci sto provando da tanto, ma perché Umberto Bossi, dopo che quindi, tu hai detto figlio d'arte. Quindi scopriremo che c'è il nonno, famosissimo. La dinastia dei Bossi, esatto. Abbiamo scoperto qualcosa. E invece è sempre molto divertente l'account falso, il fake di Bossi, appunto, sì, che si chiama, sì, il Trota ha detto, sì, che tipo scrive: l'ultima. Quando il Trota sta zitto è perché dice quello che pensa. Fantastico questo. Il Trota ha detto che Kennedy non è morto perché l'ha appena visto in TV. No, ma il primo, è molto divertente. Il primo, come avresti detto tu, è da tatuarselo da esatto, qualche parte. Poi ci scrivono anche sempre i messaggi: ma avete detto che è un politico, ma Renzo Bossi non è un politico, o sbaglio? Sono i precisini di Radio 24. No, esserlo non è, nel senso che lui è stato consigliere regionale. Poi come ci sei arrivato? Credo che sia anche indagato per come ci è arrivato, perché la questione dei dossier, tutta quella questione lì c'è. Ma e quindi sappiate che avevamo ragione. Che sia un politico, è un politico. Insomma, è un politico. Laura da Milano, chiudiamo con qualche ascoltatore, va stamattina, buongiorno. Lei? Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, siamo a sua disposizione per i prossimi. Vuole dirci chi minuti. È il personaggio della settimana? Penso che l'abbiano già in... sì, volevamo vedere se era attenta. Fa un po' il simpatico Gabardini, non prendere in giro le ascoltatrici, in questo caso un po' timide come Laura, che vedi che... Ma perché mai dovrei prenderle in giro? Poi non è timida, è timida? Diciamo che quando devo parlare in pubblico abbastanza. Ah, ho subito percepito. Ma lei si può chiudere in una stanza e far finta di essere da sola e noi la sentiamo. Il bello della radio è questo. Ma quello che sto facendo. Perfetto, vede. Lei, Laura, secondo me non è timida, è che ha in casa delle persone che stanno dormendo. È mezzogiorno, anch'io vorrei dormire. Sono le 11, chiedo scusa. Laura, cosa voleva dirci? Sì, no, volevo dire dell'esperienza positiva che c'è stata questa settimana, sì, che è stata praticamente riassunta. C'è stato questo convegno presso la Confindustria di Mantova sul cantiere di Sermide, di demolizione di Sermide. È un cantiere che è durato 2 anni e mezzo, che con la demolizione del gruppo Caldaie ed è un cammino alto 200 metri, 220. E diciamo che la cosa positiva, dopo 2 anni e mezzo si è chiuso praticamente senza infortuni, ma poi con questa collaborazione con le ASL di Mantova. E questo è secondo me un bellissimo esempio di come si possa cooperare anche con le istituzioni per arrivare poi a chiudere un cantiere così importante senza praticamente infortuni. Bene, questo è importante perché è una buona notizia. Ogni volta che ci sono costruzioni, che ci sono cantieri, si sa che questo rischio è alle porte. Grazie. Si può fare cantieri senza infortuni. Grazie, esatto, Laura. Si può fare cantieri senza infortuni. E questo, grazie mille a voi. Grazie mille, buona domenica. Era il racconto di Laura, anche perché noi continuiamo a chiedervi che cosa ha reso bella la vostra settimana ogni sabato dalle 7.30 alle 10 e ogni domenica dalle 8.30 alle 11, anche se oggi il contest era legato al personaggio della settimana che è già stato assegnato. Chiudiamo con Ada, forse da Roma. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, senta, no, volevo riferimento a quello che stanno facendo Italia, la sanità, no? Sì, sì, no, ai piccoli ospedali, sì, ai piccoli ospedali con meno di 120 posti. Vabbè, ma però anche i grandi, perché io le faccio un caso, sì, quello di mio marito, che deve essere operato, deve essere sostituita la aorta, e se un anno che ha fatto la preospedalizzazione e ancora non niente, ha dei disturbi, che si sente male, insomma, aspettano che muore. Adam, mi dispiace molto, però lei ha ragione su un punto, ed è proprio questo il fatto, probabilmente bisogna tagliare piccoli ospedali inutili per evitare di tagliare posti letto e di accelerare le operazioni, gli interventi importanti nei grandi ospedali come quello che deve fare suo marito. Grazie per averci chiamato, noi ci fermiamo qua, siamo in chiusura, ringraziamo Andrea Piana che ha scritto con noi il programma, così come Giorgio De Luca in redazione e ai social network, Peter Bescapè in regia, noi ci sentiamo sabato prossimo, buona giornata, ciao, buona domenica Maurizio, e da Carlo Gabardini e anche un saluto a tutti quelli che ci ascoltano in podcast. Si può fare cronache da un paese migliore.